Europa 24. Europa 24 che riparte tra qualche momento dalla Grecia. Torneremo a collegarci con la nostra inviata Valeria De Rosa, ma naturalmente, come dire, i lavori in corso non si concentrano solo, anzi in realtà adesso c'è poco da lavorare sulla Grecia dal punto di vista europeo, ma da attendere. Dicevo, ci sono altri dossier, uno in particolare purtroppo non ha avuto un esito positivo, riguarda la proposta di legge per uniformare i tempi sul congedo di maternità in Europa. Molto lavoro per nulla. Sentiamo il servizio. Sulla maternità unica la Commissione europea getta la spugna. Ferma dal 2008, la proposta che puntava a istituire regole comuni in tutta Europa è stata ritirata. Impossibile l'accordo, il dossier si è arenato a livello dei singoli stati. L'esecutivo ha annunciato che presenterà un'iniziativa più ampia nel 2016. La proposta prevedeva inizialmente l'aumento del periodo di congedo volontario da 14 a 18 settimane, di cui 6 obbligatorie subito dopo la nascita, le prime pagate al 100%, le altre all'85%. 2 anni dopo l'Europarlamento aveva portato le settimane di assenza a 20. Un'armonizzazione difficile per molti paesi, per l'Italia per una volta meno di altri, perché le settimane da noi sono già 20. Nel caso della retribuzione invece la normativa europea sarebbe stata migliorativa, dall'80 all'85%. Una situazione questa sulla maternità che rispecchia quella di altre leggi sui temi sociali come l'immigrazione, l'assicurazione europea sulla disoccupazione o su quelli economico-ambientali come gli OGM. Temi che coinvolgono l'opinione pubblica nei singoli stati e sui quali trovare l'accordo è un'impresa sempre più ardua. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed ora ad Atene, come abbiamo detto, la nostra inviata Valeria De Rosa. Le comunico anche a lei, poco istanti fa, magari lo sapeva già, ma insomma le agenzie di stampa greche battono l'imminente comunicato del presidente del Consiglio Tsipras. Ma intanto, Valeria, dicevo, giornata di attesa, immaginiamo, con un vero e proprio concentramento di stampa internazionale nella capitale greca. Sì Gigi, infatti qui forse siamo più noi giornalisti che i turisti, ma questa ovviamente è solo una battuta, anche perché Atene, lo ripetiamo, continua ad essere una città piena di turisti anche che sono venuti in vacanze e che proseguiranno verosimilmente le loro vacanze sulle isole. Intanto qualche informazione pratica che però ancora non è stata, diciamo, confermata. Il voto di domenica dovrebbe svolgersi dalle 7 alle 19, così come per quanto avviene di solito per le elezioni politiche. Domani giornata di silenzio elettorale, i primi risultati forse già verso le 21 di domenica sera. Dicevamo la concentrazione della stampa, e a questo proposito devo rilevare come ci siano, diciamo, degli atteggiamenti diversi. La stampa anglosassone sta portando avanti una campagna piuttosto aggressiva, nel senso che mette in evidenza con toni drammatici la situazione ad Atene, che ovviamente non è semplice, questo va tenuto ben presente, perché qui la gente non vive bene e non sta vivendo bene nemmeno questo momento, ci sono grosse difficoltà, continuano ad esserci le file ai bancomat anche se contenute, il controllo dei capitali sta creando dei problemi sull'import e sull'export, ma i toni non sono, diciamo, la realtà non è così drammatica come viene descritta anche da qualche quotidiano italiano, che non sta lesinando appunto toni davvero drammatici. Invece è più, diciamo, più oculata la stampa francese, ad esempio oggi se non sbaglio su Le Monde campeggiava il titolo la crisi greca sta mettendo a dura prova l'asse franco-tedesco, quindi diciamo più da un punto di vista politico veniva affrontato il tema che non dal punto di vista proprio della vita della città, che comunque continua a svolgersi come sempre, anche se, lo ripetiamo, certamente c'è preoccupazione tra i greci. La nota di oggi è che la polizia davvero sta presidiando le strade della capitale in forze. Grazie a Valeria De Rosa, in collegamento diretto per noi dal centro di Atene. Come in qualche modo vi ho segnalato, dunque si attende una comunicazione ufficiale da parte del primo ministro. Staremo a vedere tutti gli aggiornamenti negli spazi di GR24 e nei nostri programmi. Per Europa 24 è tutto, noi ci risentiamo con questo programma lunedì. Un saluto. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.